ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Prima puntata. Introduzione. Per una traccia di sentiero, segnata da innumerevoli piedi nudi fra le erbe e le canne della valle dell'Idro, le donne scendono all'alba Otranto con ceste piene di cicoria e di caciotte. Hanno grandi occhi neri, capelli lucidi, aggrovigliati, andatura fiera. Mentre le piante dei piedi si espandono illese sul sentiero, esse guardano con la pupilla fissa in direzione del mare, uno sguardo asciutto, ereditato da generazioni di otrantini vissuti in attesa dello scirocco e della tramontana per regolare su di essi pensieri e faccende. Arrivate alle mura della città, depositano cicoria e caciotte ai piedi della torre di Alfonso d'Aragona ed un tratto si mettono a urlare, come invasate da un improvviso oracolo, si scuotono dentro le nere vesti e gridano in faccia al passante: «Cicorie fresche! Cicorie rizze!» A questo punto, se c'è un forestiero presente, rimane inchiodato sul lastrico, all'ombra della torre, guardando gli occhi nero-viola delle donne, la pelle bruna, domandandosi perplesso: «Sangue greco o arabo?» «Sangue otrantino», gli risponde la vecchia nenia che le donne cantano ai lattanti per addormentarli. «Sangue otrantino, saporito come menta e petrosino, sangue forte e fino contro il turco malandrino». Vista dal mare, Otranto appare ancora una fortezza con i bastioni a picco sull'acqua, ma dietro la vuota abbondanza di mura e torrioni, un prodigio di viuzze bianche in salita, in discesa, di casette bianche, di palazzotti tufacei. In queste viuzze i fatti della storia sono rimbalzati come pomi maturi da un secolo all'altro e giunti fino a noi. Qui le palle delle bombarde turche scagliate 500 anni fa reggono i gradini d'accesso alle case o adornano la soglia al salone del barbiere, all'ufficio postale, situate ai due lati dell'ingresso. Viene sera. Le ragazze siedono presso le palle, stessi occhi, stessi capelli delle venditrici di cicoria, e da un uscio all'altro si danno la voce, parlano dell'innamorato che fatica alla Svizzera, mentre una vecchia, trascinando per un braccio un bimbo seminudo, riluttante, che batte dalla rabbia i piedini per terra, grida: «State in corto, che le turchi te ne portano per l'umare!» Al che il piccolo smette di battere i piedini nudi e comincia a piangere, un pianto monotono, slungato, salentino. Prende spicco al centro della minuscola città una strada in salita che man mano s'allarga, il cui lastrico è lucidato dalle scarpette nere dei seminaristi. In cima la piazza della cattedrale. Gravando sulla roccia con il peso dei suoi muri romanici, la cattedrale è il cuore di terra d'Otranto, perché dentro ci sono loro, in fondo all'abside, a destra, come il nocciolo in un frutto. Ogni anno, il 14 agosto, da tutto il Salento vengono uomini, donne, bambini a salutarli. Alcuni arrivano lentissimi sui traballanti e impolverati sciarabà, altri così e così, in bicicletta, in lambretta, altri in Giulietta Sprint e hanno l'aria di correre ai campionati mondiali. Tutti fanno merenda sulla spiaggia con sovrabbondanza di melloni brindisini, mentre i pescatori, a passo lento, avanzano, bruni e muscolosi, sulla sabbia, seguendo il ritmo del passo con la testa. Offrono cestelli di cozze e gridano: «Le caramelle dell'umare!» Per l'occasione la banda suona il Nabucco o i Lombardi alla prima crociata. Le bancarelle vendono nocciole e copeta, un impasto stranamente duro e di rara dolcezza che resiste al coltello ma si sfalda alla presa di una mano volonterosa e la lusinga, un dolce degno di loro. Meglio andarli a trovare in un giorno qualunque. Per raggiungerli si percorrono le lunghe navate della cattedrale, dove prima cosa si vorrebbe non avere piedi, bensì alucce che consentano di saltellare come dei passeri fra i tre enormi alberi della vita, fioriti in tessere policrome di calcare sul pavimento, e così non contribuire alla consumazione del prodigioso mosaico. Caro Don Pantaleone, tu scendevi nell'anno di grazia 1165 dal monastero basiliano di San Nicola di Casole, dove avevi fatto la conoscenza coi bestiari, con le belle storie di Alessandro Magno, di Re Artù, e ti inginocchiavi sul tuo pavimento. Un po' di tessere fra le mani ed ecco, a destra della porta dell'Eden, Re Artù a cavallo, che lotta col gatto di Losanna. Ecco Alessandro, vestito di porpora e incoronato alla maniera di Carlo Magno, che si asside sul deretano di due grifoni accostati e graziosamente offre all'uno e all'altro in pasto le palme della gloria. Il mosaico arriva sino alla soglia dell'abside, dove ci sono loro, che di solito dormono dietro i fragili vetri degli ossari. L'autore di questo libro dovrà giustificarsi di averli destati, condotti a quel lavorio della memoria che non sappiamo se per i morti sia più o meno struggente che per i vivi. In questa cattedrale, difatti, qualcuno di essi trovò scampo, qualcuno si uccise, tutti servirono in ginocchio il loro Dio e si stupirono della propria sorte. Vi sono due modi di accostarsi a loro, l'uno per così dire turistico, il forestiero che giunga in terra d'Otranto e vi sosti per breve tempo, ascolta dalla bocca della guida l'antica storia di coraggio e di sangue, di molto sangue, aggrotta le sopracciglia, chiede schiarimenti, fissa dietro le vetrine i mucchietti di scapole, di tibie, di femori e di crani, smemorando per qualche attimo, poi se ne riparte, con un ritmo irreale di favola nell'anima, lo stesso ritmo delle vecchie cronache locali. L'anno della salute del mondo per Gesù Cristo nostro Signore, 1480, regnando nel regno di Napoli il serenissimo re Ferdinando I d'Aragona, nell'anno 22 del suo regno, sotto il pontificato di Sisto IV, sotto l'impero dei Romani di Federico III Cesare Germano, fece Sultan Maomet, imperatore dei Turchi, l'impresa della città di Otranto e quella per forza d'arme debellò e vinse con quella memorabile strage che ne seguì, l'anno dell'edificazione di detta città 2730, l'anno avanti dell'edificazione di Roma 415, l'anno avanti la natività gloriosa di Nostro Signore in carne 1250, regnando in Italia Fauno Re, figlio di Pizzo, in tempo di Mercurio Hermes, uomo sapientissimo, inventor della musica, nel tempo di David, re di Israele, ovvero circa la natività di Mosè, secondo che l'antichità ha creato questa differenza, la quale scorsa ogni anno nel computo di questi tempi si trova alcuna varietà. Mettiamo di soggiornare a lungo nella vecchia terra d'Otranto, di scendere al crepuscolo verso il molo del porto, durante una bufera di tramontana, quando i pescatori siedono in terra alla turchesca, la pelle abbronzata, guardando pian piano il mare, riflettendo da soli, aspettando in silenzio, come suoi fidati amici che quella furia gli passi. È su per giù come aprire una finestra che dia in un luogo segreto e appartato. Le cose allora cambiano. Ogni distanza nel tempo cade, ogni senso di favola si fa impossibile. Sono ancora loro che abbiamo davanti, gli stessi pescatori, salvo qualche dettaglio, qualche frastuono momentaneo attorno alla loro persona, gli stessi piccoli uomini dalla squisita capacità di comportarsi bene nell'ora destinata. Si fa un gesto di saluto, rispondono: «Buon vespro a signoria», e tornano a tacere, ad aspettare, un silenzio puro che si espande all'intorno come la chiara luce dell'alba sul colle della Minerva, dietro la città. È da quel silenzio che affiorano le antiche voci e tremano al di dentro di una brillante giovinezza che era la loro vita. Si ha l'impressione di aver scoperto un evento felice. Ci si allontana dal molo pensando che quanto narrano le cronache non è lava impietrata, ma ancora calda in questo corno d'Italia, sus la senestre corne di Taile, e che i pescatori d'oggi hanno solo dato il cambio a metà del viaggio. Parte prima. Colangelo Pescatore. Quando scendevo nella buon'aria dell'alba dal Borgo Vecchio al porto, i frati del convento di San Giovanni, svegliati dalla devozione, cantavano nel coro. Alla stessa ora le cornacchie di mare si davano la voce finché, raccoltesi sulla torre del Serpe, puntavano tutte i becchi nella stessa direzione, aprivano le ali nere e volavano verso l'acqua. Più tardi, mentre fermavo i conzi grossi, tornavano a stormo sulla torre, guardavano fisso il cielo e scoppiavano a gracchiare. Le case di Otranto, circondate da giardini, si stendevano in bell'ordine dalla collina al mare e la città terminava a ponente e a levante con due conventi, l'uno di San Giovanni e l'altro di San Francesco. La mia casa era sulla collina, nel Borgo Vecchio, dove abitava solo gente bassa, pescatori o uomini dei magazzini, ma da lassù la vista giungeva oltre la roca matura, un braccio di terra che si andava aguzzando nel mare a ponente con cale, portetti e dune di sabbia. Per me niente stava al paragone con Otranto, città dilettevole e ricca, capo di una provincia, signora di molti casali. Non c'era sulla terra mestiere che i pescatori otrantini non avessero gusto di fare, quando i cavalloni della tramontana impedivano la pesca. Lavorare la creta e il ferro, schiacciare le ulive nei trappeti, vendemmiare sull'altopiano, raccogliere legname. Quel mattino era un venerdì, era il 28 luglio dell'anno 1480. Sceso sulle rocce più basse, vicino al porto, mi rimboccai le brache, perché al vento della tramontana ogni onda faceva spruzzo, mentre buttava acqua nelle buche degli scogli e si succhiava quella lasciata dall'onda precedente. Saltando a piedi nudi, avanzai di scoglio in scoglio fino ai piedi della Torre del Serpe, dove la roccia aveva di per sé messo in opera una bella insenatura, nella quale l'acqua se ne stava quieta, quieta, anche durante le bufere di tramontana, tanto che io ero solito fermarvi i conzi grossi. Era posto di dentati quello, ne passavano ogni giorno alla prima luce, l'ora che i pesci dentro l'acqua sono guidati da una voglia di novità. Fermati i conzi grossi e drizzatomi, perché m'ero stancato di star curvo sulla schiena, guardai come si metteva il tempo, a largo, verso il canale. Il mare aveva perso la pace. Sopra la scarpata i cespugli di finocchio selvatico si contorcevano e le cime delle querce erano confuse nel vento. Che il tempo dovesse ancora peggiorare pareva sicuro, perché la tramontana, dalle parti nostre, non cala mai nelle ore del sole. Lo spruzzo dell'acqua arrivava fino alle rocce fulminate del Cucurizzo, fino al basamento della Torre del Serpe, che dominava dall'alto tutto il canale. Case vicino alla torre non ce n'erano, perché era posto sinistro quello, dove la notte i morti tornavano dal mare alla riva, salivano sugli scogli e andavano con sottili lamenti fra le malerbe. Questa storia sulla nostra costa ebbe inizio nei tempi addietro, quando in terra d'Otranto regnava Maria d'Enghien e sulla torre viveva un serpe. In una notte di tempesta, questo serpe salì a spirale lungo il muro della torre, infilò la testa fra le grate della feritoia più alta e, visto l'olio della lampada che faceva luce ai naviganti e dava segnale del porto, essendo privo di vero conoscimento, si bevve quell'olio sino all'ultima goccia e lo digerì disteso sulla pietra, nel silenzio della notte. Attraversava allora il canale un galeone di mercanti veneziani che andò subito a sbattere contro gli scogli. I mercanti veneziani sparirono nell'acqua, ma non poterono aver pace nel fondo del mare, perché nei loro occhi morti, nei loro piedi morti, era rimasta la voglia di terminare il viaggio interrotto. Così, di tanto in tanto, la notte essi passeggiavano sulla costa, ricordandosi delle cose piacevoli della vita. Ad essere sincero, io non ho mai visto grossi serpi né scorzoni in questa terra che bevano olio, e la mia esperienza di pescatore quel mattino mi portava a riflettere che qualcun altro doveva aver bevuto con maledetta gola l'olio della lampada, e cioè il diavolo in persona, che da quando è caduto dal cielo ha usato il suo senno di angelo a rovinare la pace degli uomini. Era fresca l'aria quel mattino, benché fosse il mese di luglio. Giungeva bagnata dal mare e faceva balletti nei cespugli di malvarosa e di finocchio. Tanto valeva che tornassi al porto a levare le lenze. Di pesca quel giorno non si poteva parlare. Ricordo benissimo. Stavo giusto per chinarmi sulla fiancata del porto a tirare le lenze e d'un tratto vidi la cosa. È certo che quando la curva lama del coltello turco m'entrò fra le costole sulle mura di Ponente, al confronto fu una cosa smorta. Mi stavo chinando, ho detto. Le barche legate alla fiancata, alcune tinte di fresco, altre al confronto scolorite, battevano contro i pietroni a intervalli per il mare grosso, sulle quali i ragazzi saltavano nudi, bagnati e pieni della loro gioia. In quella il vecchio mastro Natale fece di tutte le reti un mucchio solo, lo passò sotto il braccio sinistro e prese ad andare con il passo larghetto verso la spianata dove non arrivavano gli spruzzi. Giunto là, si sedette in terra coi piedi nudi volti in su. Pensava. Era una cima in fatto di pensieri e tutti i pescatori lo onoravano per questo. A 100 passi dal porto, la barca di Procomio da Malcantone, di ritorno dalla pesca incannizzata, saliva e scendeva, ora con la poppa, ora con la prua, senza riuscire a entrare in porto. Ma poiché ormai poteva considerarsi fuori pericolo e solo Procomio, fra tutti, quel giorno aveva fatto carico di pesce, i pescatori ed io compreso, Gesù mi perdoni, ci godevamo dall'alto lo spettacolo. Così l'invidia imbratta il cuore dell'uomo per natura generoso. Procomio, che fissava le onde a pochi passi dalla barca, non poteva guardare lontano per non giocarsi il carico di pesce. Perciò quella mattina lui fu l'ultimo a vedere la cosa. Io fui il primo. Galeoni di mercanzia non potevano essere. Chiara fu subito la forma delle vele e a poco in vetta ai cavalloni la mezzaluna stessa degli scafi. Erano galee turche nel mezzo del canale d'Otranto. La rotta voleva essere per Brindisi, ma l'acqua assaltò le prue, le girò verso Ponente e verso Scirocco, sicché galeotte, fuste e maoni mescolati alla rinfusa brancolavano senza direzione nel mezzo del canale. Ogni tanto scomparivano, ma la furia dell'acqua li ributtava in vetta ai cavalloni, mentre una schiuma bianca si spandeva svelta svelta per tutto il canale. Poco tempo era passato quando un vapore grigio simile a fumo coperse mare e cielo, attraversato a momenti dal fuoco di fulmini silenziosi e squarciato da folate di tramontana che mi lasciavano solo vedere al largo fantasmi di galee sospesi nel vuoto. Mi drizzai sulla punta dei piedi, facendomi paraocchi con le mani. Di nuovo vidi le galee prendere la rotta. Cercai di calcolare con tutta l'attenzione la distanza, il tempo che si richiedeva perché scomparissero dal canale, ma perdevo la testa nel calcolo per la lentezza e il disordine che la mareggiata dava alle manovre. Nel girare la testa verso Mastro Natale, m'accorsi che su uno scoglio e su un altro c'erano Cola Mazzapinta, Nachira, Alfio da Faggiano, Antonello d'Alessandro, fermi, con gli occhi fissi al canale, e il vento a portarsi via il mare nella risacca, finché il fondo mostrava ricci e caure, le cornacchie a volare con ali frenetiche. Diventammo 20, 30 sugli scogli, nessuno parlava, uno stare tanto zitti insieme non c'era mai stato. Poiché il sole guastò e consumò in breve la nebbia, gli occhi potevano ormai guardare bene le falci della disgrazia che comparivano e scomparivano a ritmo. Quando un cavallone si schiantava sugli scogli, era segno che un momento dopo al largo sarebbero comparse. Le galee non procedettero più. L'andare che facevano adesso non era un andare, era un dimenarsi nello stesso pezzo d'acqua. Volevamo credere che stessero manovrando le borine delle vele quadre, ma quando ci sbirciavamo in silenzio, ognuno leggeva negli occhi dell'altro: con questo mare il canale chi lo passa? Poi le prue a una si voltarono verso Otranto e man mano che la distanza diminuiva si potevano ben distinguere le galee dalle galeotte, i maoni dalle fuste, le quali davanti alle altre vele scavavano con la prua l'acqua. In quella Procomio ce la fece entrare nel porto col suo carico di pesce. E quando voltatosi sulla barca verso tramontana vide la cosa, manifestamente per il contrasto dei pensieri dette un grido, si voltò verso di noi, alzò le braccia, gridò di nuovo: «Oi, i turchi!» Fummo rapidissimi, cominciammo a correre e a gridare tutti insieme. Alfio da Faggiano urlava: «Alle campagne, a ritirare le bestie, bisogna portare dentro le bestie!» «No, signore!» gridava con la mazzapinta che non aveva bestie. «Prima si portano a spalla le barche dentro le mura!» Nakira diceva che no, che bisognava sbrattare subito i casali e mettere le robe al sicuro. C'era una grande confusione, quando ecco vedemmo nella piazzella dei soldati spagnoli insieme a un ufficiale. «Andiamo dall'ufficiale!» gridò Nakira. «Forse lui sa cosa si deve fare!» Ci accostammo di corsa, mentre pure l'ufficiale prese a venirci incontro. Quando gli fummo vicini e ci mettemmo zitti ad ascoltarlo, lui incrociò le mani, gridò: «Avete visto i turchi? Avete visto quante galee?» «È già che li abbiamo visti», disse con la mazzapinta. L'ufficiale pareva arrabbiato con noi. «E che faremo adesso? Sono molto più numerosi e ben armati. Mi dite che faremo? Io vorrei proprio sapere che faremo». «Alla malora», disse con la mazzapinta. Ci guardammo in silenzio e riprendemmo a correre. In quella si udì la voce del banditore: «I capitani della maestà del re, Don Francesco Zurlo e Don Giovanni degli Falconi, ordinano raduno nella piazza grande, tutti alla piazza grande!» Gli ordini furono duri e diversi dalle idee nostre. Bisognava per prima cosa affondare le barche da pesca e da traffico per chiudere il porto, le belle barche lucide appena calafatate, poi far entrare dentro le mura gli uomini, le bestie e le provviste che erano in campagna, infine spargere veleno nei pozzi. Ubbidimmo con tutte le regole agli ordini dei capitani, ma quando il grosso delle galee sbarcò sotto vento alle fogge e i turchi presero a tagliare coi picconi la pietra per preparare lo scalo, il battere fondo saliva fino al lontano uliveto di San Nicola di Casole, dal che si può intendere con quale furore battessero dei picconi venuti in mani indemoniate. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.